L'elasticità è perduta a seguito di diete che sono ricche in metionina, un aminoacido che è presente negli alimenti animali, sì, quelli che noi assumiamo più spesso. Basti dire che in certe aree del mondo dove non mangiano quasi proteine animali, l'aneurisma è pressoché sconosciuto. Quali sono allora queste diete? Giustamente diceva lei la soia, sì, la soia che abbassa il colesterolo e bassa in metionina, il lupino ancora meglio. Che è un po', no? È un po' la risposta, più interessante alla soia. Più povero in metionina e abbassa molto il colesterolo e anche la pressione, per di più è molto più buono della soia. Il problema del lupino è che, attenzione, non i lupini, quelli che si mangiano, quelli che si trovano come bacche, contengono molto sale e sono da evitare. Invece esistono oggi alimenti, gelati, bistecchine, che sono assolutamente squisiti, hanno una diffusione per il momento crescente, ancora limitata, e sono un'alternativa alla soia anche perché hanno un gusto molto migliore. Quindi noi possiamo puntare sul lupino. È una carta vincente. Comunque sugli alimenti che siano poco ricchi di metionina, che si trova invece nelle proteine animali.